rubato la fauna, un cappetto di pelle, che poi già mi diverto io domani, fin qui, tanto domani già lo sai che non è lì, no? Tu dici che mi vuoi denunciare, ma dove mi denunci tu e tuo fratello, che non hai nemmeno concessione tu? Puoi pingolare a me, agli altri. Comunque io non mi preoccupo, Peter, perché io e Becchi non ce la posso più buttare, però ricordati questo. Che tanto prima o poi dovrei crepare, capito? Poi non dire che non sei tu che rompi le balle. Ma come sono io, Roberto? Dalla parte, quando mi ha rotto i coglioni, mi ha fatto perdere il zebra. E la seconda, la russa è un'altra cosa. Poi voglio vedere se tuo fratello ti vede con la faccia gonfia, se ti toglie quel cavolo di barchino.